L'idea dell'iniziativa è quella di provare a portare una narrazione che sia differente rispetto a quella dei media mainstream a cui siamo costantemente sottoposti nell'ambito di quello che sta accadendo ora in Israele e Palestina. Faremo questa cosa con l'aiuto di docenti del calibro di Ruba Salih, che è appunto una docente presso l'Università di Bologna di origini palestinese che da sempre si occupa di colonialismo di insediamento in Palestina da un punto di vista di antropologia, e con la docente Francesca Biancani che invece studia relazioni internazionali e ci parlerà di tutte quelle violazioni del diritto internazionale che sono state commesse da Israele in questi giorni nell'ambito della risposta che i militari israeliani hanno dato, l'esercito israeliano ha dato all'attacco di Hamas del 7 ottobre. Insieme a loro ci sarà anche un attivista, Guy Butavia, che è un attivista israeliano del gruppo Tayush, che è un gruppo nato dopo la seconda intifada, quindi intorno al 2000, di matrice possiamo definire anarchica, che cerca di creare degli spazi in cui israeliani e palestinesi possono resistere insieme. Infatti la loro idea originaria è quella non tanto di solidarietà o di coesistenza quanto di coresistenza a un regime che è quello israeliano che imprigiona palestinesi ma che viola anche i diritti di tutti quegli israeliani della sinistra radicale che cercano di esprimere un dissenso nei confronti delle politiche del governo israeliano. Quindi sarà anche un'occasione per sentire appunto una voce dissonante che è quella di Guy, di questo attivista israeliano che è appunto qui in Italia in questi giorni anche per sfuggire a quelle che sono state le ripercussioni del governo israeliano anche nei suoi confronti, in quanto subito dopo l'attacco è stato arrestato e interrogato dalla polizia di Gerusalemme. A proposito delle narrazioni che purtroppo la nostra stampa mainstream fa, c'è spesso l'identificazione di Israele con il suo popolo. Questa sarà invece un'occasione per mostrare il lato del dissenso israeliano. Esatto. Penso proprio di sì. È ovviamente una minoranza quella della sinistra radicale israeliana dentro lo Stato di Israele. Tuttavia sappiamo anche che ci sono tantissimi ebrei non sionisti, l'abbiamo visto nelle proteste negli Stati Uniti di Jewish Voice for Peace e altre organizzazioni di ebrei che si sono appunto mobilitate in netta opposizione alla risposta violenta, genocida del governo israeliano contro Gaza. E queste voci sono molto importanti perché sono proprio quelle che permettono di ribaltare questa narrazione, sia quella che vede lo Stato di Israele coincidere perfettamente con la sua cittadinanza, ma anche quella che vede la coincidenza lineare del popolo ebraico con il governo israeliano. Questo non succede, ci sono tantissimi ebrei appunto nella diaspora che non vivono in Israele e che spesse volte sono anche critici rispetto alle posizioni di questo governo.